voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Undicesima puntata. Ero andato una volta a prendere dei pezzi in un'officina sull'Aurelia. E da allora nel pomeriggio uscivo sempre in bicicletta, un'ora o due. Lasciavo il negozio al ragazzo e alla bionda. Lei una volta mi chiese se andavo lontano. Giro un po', le dissi. Dove passi la sera? Dove vuole che vada? Non balli, non giochi alle carte, non vai in Trastevere. Lo facevo a Torino. Anche a Torino c'è Trastevere? Qualcosa di qua dalla Dora, si chiama il Fortino. Cosa facevi? Discorreva e guardava per terra. Non era mica una scema. Si bilanciava sopra i piedi e mi guardava. Non facevo il ciclista. Mettendosi dietro le mani come fosse una ragazza, mi guardò senza ridere. La guardai senza ridere e già sapevo tutto quanto. Questi posti sono sempre sull'acqua, le dissi. Perché? Già, perché? Disse lei. Finì così, perché non volli andare avanti. Lei mi disse che andava al cinema quel giorno. Io pensai con la blusa a quadretti. Nel pensarlo le diedi un'occhiata, lei mi capì e la vidi ridere con gli occhi. Accidenti, era ben sveglia e sembrava un ragazzo. Fino a notte rividi la testa riccia e quella bocca e il camminare nella tuta. Fu quella volta che scappai senza aspettare che chiudessimo. Ci pensai sopra molti giorni e c'era un fatto che contava. Lei stava sempre in quella stanza e non vedeva nessuno. Le sere nel centro non me le avrebbe guastate. Ci pensavo e ridevo. Da quanto tempo non sapevo più cos'era. Alle volte mentre parlavo e scherzavo con gli altri mi sentivo un'ondata di sangue e sapevo che lei mi aspettava. Diventava più bello fare tardi con gli altri. Così passavano le sere e non facevo un passo avanti. Tanto scappare non scappava. Era bello lasciare che venisse da sé. Questa volta sapevo quel che cercavo e non c'era bisogno di muovere un dito. La mattina dicevo scherzando alla Marina: se non ero un figliuolo coi fiocchi, dormir sempre solo. Lei mi guardava per traverso e borbottava. Le dissi allora che era colpa dell'immagine, perché da quando la portavo nella tasca dei calzoni mi piacevano troppo le donne. Lei mi guardò con gli occhi stretti, poi disse: ridi, ridi, vedrai che qualcosa succede. Una sera la bionda mi disse: mi accompagni domani alla partita. Avrei pensato tante cose, ma non quella. Ci andavano tutti alla partita, anche Luciano. Le spiegai che ero già in comitiva. Io ci vengo, mi disse. Tu prendimi un biglietto. Così ci venne e si sedette in mezzo a noi. S'era vestita mica male e non mi fece sfigurare. Se ne stava fra me e Carletto con l'aria agitata e guardava come se avesse scommesso e faceva dei gridi sul pugno. Non volle la birra. C'era Giulianella che cercò di intrattenerla e la invitò a sentir Carletto al varietà. Lei rispondeva piano piano, ma nei casi del gioco dava mano al mio braccio e stringeva. Finì che anch'io mi strinsi a lei, senza parlare. Andammo tutti a bere insieme a un'osteria, ma lei non finì il suo bicchiere. Si chiamavano insieme per nome e ridevano. Non avevamo la chitarra, ma Carletto cantò ugualmente la rivista. Le chiedemmo perché non restava la sera con noi. Si poteva andare fuori a cenare. Anch'io le dissi di venire. E così passammo a ritirare la chitarra in trattoria. Poi si andò a cena fuori porta. C'era un bel posto su una strada antica che ci si va per un'arcata come un grande portone. Lo sapeva Giulianella. Camminammo tra muri e campagna, si vedevano degli alberi neri e dei pezzi di pietra. Non ho mai visto una campagna così vuota. Veniva voglia d'essere rondine e volarla. Ci sedemmo all'aperto a quei tavoli piantati per terra sotto una griglia e delle canne. Eravamo due passi da Roma e Roma non c'era più. Veniva sera e non ci accesero la luce. Qui mangiammo, suonammo e ridemmo bevendoci sopra. Lei non parlava e ci ascoltava fare i matti. Le piaceva sentir la chitarra. Mi montarono poco alla volta e bevevo, ma per suonare li volevo zitti tutti perché le note quella sera mi piacevano pulite. Quando fu l'ora di tornare a teatro, la bionda non volle saperne. disse che si era divertita e che voleva andare a casa. Discutemmo sul tram, ma lei non volle saperne. Tutti dicevano: tu Pablo, accompagnala. Io, che avevo bevuto e pensavo ancora a quei prati, l'avrei lasciata tornare sola, ma non vollero. Poi torni a teatro, mi disse Dorina, e così ce ne andammo a casa, chitarra tracolla. Finché fummo in tram passò liscia, ma quando l'ebbi a fianco sola camminando mi toccò dir qualcosa. Non lo sapevo che si chiama Gina, le dissi. Mi guardò di sfuggita. Come tu che sei Pablo. Arrivammo zitti al negozio. Lei l'aprì, poi mi disse: lo prendi il caffè? Mentre stava nel retro a scaldarlo, io posai la chitarra e aspettavo. Dal finestrino illuminato la sentivo fischiare. Sono poche le donne che fischiano, dissi. Cessò quel fischio. Poi sentii: non è mica proibito. Una donna che porta la tuta, le dissi. Non fa male a fischiare. Non rispondeva. E non capii perché. Le sta bene la tuta, le dissi. Se penso a lei, la vedo in tuta giorno e notte. Non rispose e nemmeno si sentiva rumore. Allora stetti sulla porta e non sapevo cosa fare. A quell'ora non passava nessuno, il negozio era buio. Poi la luce s'accese, mi voltai. L'avevo lì davanti, in tuta, che rideva. Tutta la notte stemmo insieme su quel letto. Era di quelle che gli piace divertirsi. Ogni tanto dicevo: mi vesto. Non andartene, lei diceva. Chissà se dormi un'altra notte qui con me. La chiamavo Ginetta. Lei rideva e piangeva, non stava mai ferma. Quando si stese e non disse più niente, anch'io restai, con gli occhi svegli, dentro il buio. Come sono le donne, pensavo. L'ha già capita che di lei non mi importa. Mi tornava una rabbia lontana, come se lei fosse qualcuna che non era, come se stare lì con lei non mi piacesse. Mi aveva detto tante cose di quei giorni, tante parole, tanti scatti, tante occhiate che le avevano fatto capire che avevo bisogno di lei. Non è vero, pensavo, è una donna, non vuol dire che è lei che mi cerca. Avrei voluto andare a casa e star solo. Dovevo averla giorno e notte nei piedi. Venne mattino e mi svegliai che lei era già alzata, mi faceva il caffè. Non hai fame? S'era vestita con la blusa di sempre e venne a letto e mi guardava. Padrona, le dissi, qualcosa non va? Lei mi buttò le braccia al collo e stette lì, come una scema. La baciai come prima e le dissi: cos'hai? Non dai nessuna confidenza, lei mi disse. Non mi pensi. Quel mattino capii come vanno le cose. Se vuoi bene a qualcuno, quell'altro ci ride. Mi veniva da ridere, senza averne voglia. Non glielo dissi, ma le dissi che doveva stare attenta. Non ci siamo sposati, le dissi, lo sai, facciamo conto che sia sempre il giorno prima. Andai fuori a fumare una cicca davanti al fiume. Però era bella la scarpata, quei terrazzi, le ville. Era bella anche l'acqua sotto le arcate, nel sole. Dal cantiere del ponte veniva un rumore di colpi di mazza. Mi tornò in mente la montagna, quell'inverno, in fondo al corso. Tornai dentro e passò la mattina. Lei faceva insieme a Pippo un controllo di gomme. Pensavo già di portarla a mangiare un boccone quando Pippo dal retro mi chiama. C'era qualcuno all'usciolo dell'orto che voleva parlarmi. Venga avanti, gli dico. Era Carletto, che stavolta non rideva. Ah, ci sei, disse correndomi addosso. Stamattina hanno preso Luciano. Proprio stanotte dormi fuori, mi diceva Carletto. Quando ho chiesto e non c'eri, sono morto sul colpo. Ma dov'eri stanotte? Io pensavo a tutt'altro, e anche lui ci pensava, ma era così agitato che parlava di me. Com'era andata non lo seppi che più tardi, anche troppo lo seppi. Da quel mattino anche Carletto non fu più la stessa cosa. Quasi quasi mise paura anche a noi. Giulianella era venuta quel mattino a casa loro. Era andato Carletto alla porta e Giulianella l'aveva abbracciato piangendo. Erano venuti in quattro o cinque, che Luciano dormiva, messo in aria la casa, poi l'avevano fatto vestire e arrestato. Giulianella era ancora da noi per sapere, credeva fossimo arrestati tutti. Lascia perdere, dico a Carletto. Pensa un po' quando suono da te e la Marina mi dice che non è ritornato. L'han preso per strada, mi grida Dorina. Pigliano tutti, anche te. Sono corso a cercarti. Chissà Luciano cosa ha fatto, dissi Allegro. Ma a Carletto tremavano le mani. Non era finita. Giulianella diceva che gli avevano trovato dei fogli e se adesso Luciano parlava, era fatta. È un disgraziato, diceva Carletto. Vedrai che lo picchiano e lo fanno parlare. Ci pensai sopra e stetti zitto. Avrei voluto dirgli, hai visto? Ma mi fece pietà e dissi, ancora sei fuori. La prigione è una cosa che a parlarne non sembra niente. Chiesi a Carletto se dei fogli lui ne aveva e disse no. Poi camminava nella stanza e si fermò e gridò, miseria, cosa c'è? Ci sono i libri del marito di Dorina. Qui mi disse che in casa non voleva rientrare. Non arrestano soltanto di notte. Può anche darsi che aspettino per pigliarmi sul giro, o magari a teatro. O vogliono fare una retata con le donne. Lo lasciai dire quel che volle e ci pensavo. Se Carletto scappava lo capivano tutti. Si metteva nel rischio per niente. Bisognava sapere che cos'era successo. Perché avevano preso Luciano e non lui. Poteva darsi che Luciano avesse avuto altre amicizie. Per esempio con gli studenti e avvocati del caffè. Dissi la mia idea a Carletto, che girava per la stanza e lì per lì non rispose. Era smorto e agitato. Poi si fermò e disse, capisci di quei fogli? Se l'han preso è perché qualcuno ha parlato. E anche lui parlerà se non sa che son fuori. Mi venne in mente quando andavo per Torino a ubriacarmi e più bevevo, più pensavo a tante cose e avevo il sangue come l'acqua in una stufa. Come lui allora non potevo star fermo e parlavo da solo. Avevo sempre giorno e notte avanti agli occhi quella cosa. Io da qui non mi muovo, mi disse Carletto. Non sa nessuno che son qui. Se faccio in tempo vado a casa per quei libri, disse allora. Chissà Dorina cosa pensa. Gli dissi di stare nell'orto e partii. Sulla piazza tutto era tranquillo. Salì le scale, devo dire, piano piano. E stavo già per entrare prima della vecchia quando l'altruscio si spalanca e sento Pablo. C'eran tutte, Dorina, Giulianella, la mia vecchia e la nonna. Giulianella mi aspettavo di vederla più a terra. Era soltanto un po' nervosa. Chi dava noia era la nonna, sempre dietro. Dissi subito a Dorina di farmi il pacchetto dei libri. Poi spiegai che Carletto si era presa paura e non c'era più niente da fare. Deve andar via, deve andarsene, dicevano le donne. E Fabrizio? L'han preso Fabrizio? Ma che? Per far qualcosa combinammo che sarebbero partiti. Bastava andassero fuori Roma in una casa di parenti. Andò nel negozio Dorina per parlargli e combinare. Io mi presi Giulianella col pacco dei libri e dicevo, li butto nel Tevere. Entrammo invece in quel caffè perché Giulianella era stanca di girare. Di quei fogli mi disse che non era sicura. Avevano preso delle lettere, perfino dei pezzi musicali, delle cose scritte a macchina, ma forse era soltanto un copione. Mentre parlava le vedevo gli occhi rossi. Non se la prese col fratello, non se la prese con nessuno. Disse soltanto che era certa che l'avrebbero picchiato. Quando mettono dentro un signore, mi disse, lo trattano bene. Noi altri invece siamo come i comunisti. Magari lo siamo, le dissi. Lei rise appena e mi chiese se venivo al teatro. Bisognava spiegare al padrone che mancavano i tre. Ho questi libri, vado a casa, ci vediamo. Pensai per la strada se era vero che picchiavano soltanto chi lavora. Sta a vedere che temono più noi che i signori. Cominciavo a capirci qualcosa nel gioco. Carletto e Dorina seduti sul letto discutevano ancora. Gina aspettava sulla porta e aveva avuto tanta testa da mandar Pippo in commissioni. Ne sono successe delle cose, le dissi all'orecchio passando. Lei non rispose e piegò il capo tutta rossa alla mia faccia. Perché Carletto la capisse che doveva andarsene, fu necessario che vedesse che non c'erano altri letti. Io gli dissi che tutto sommato quei fogli non c'erano, che doveva star calmo, che Luciano era in gamba. A combinare con Fabrizio andò Dorina e Carletto mangiò due bocconi là dietro. Dissi a Gina di chiudere e la presi con me. Andammo insieme all'osteria di fronte. Verso sera arrivarono Dorina e Fabrizio e avevano visto molta gente e dappertutto era tranquillo. Tutte le volte che toccavano la porta, al finestrino era Carletto che correva. Gli spiegammo che andare in campagna era inutile. Se la questura lo cercava, lo pigliava anche là. Io capii che Carletto l'aveva capita, ma non voleva dare indietro per puntiglio. Partì alla fine con Dorina e col fagotto. Fabrizio tornò al suo teatro. Così passarono dei giorni e non si vide più nessuno. Tutte le sere, quando Pippo se ne andava, gli occhi di Gina mi aspettavano. Prima parlava brusca, asciutta. In quel momento mi guardava disperata. Se le andavo vicino e dicevo qualcosa, mi pigliava le mani. Mi fermai qualche volta la notte. Era giugno e pensare a chi stava in prigione faceva una pena. Perché loro e non noi? Non so perché. M'ero convinto che li picchiassero di notte. Potevo andarmene per quelle strade, far la notte con Gina, rientrare al mattino. Non riuscivo a levarmi di mente quegli altri in prigione. Quanto più c'era fresco e gente allegra per le strade, lungo il Tevere, sotto i giardini, davanti ai caffè, tanto più ci soffrivo. Quando giravo in bicicletta al pomeriggio andavo fuori, cercavo i rioni più lontani e tranquilli. Non potevo resistere sui crocicchi al centro, dove era caldo e un putiferio di automobili e di gente, e l'asfalto era lustro e puzzava. Piazza Venezia era vicina, ci sentivo quel puzzare, quella voce. Si sentiva guardando i palazzi e i giornali. Ce l'avevano indosso i passanti. Voltavi l'angolo e quei vicoli del centro erano cessi. Da quanto tempo ci pisciavano i romani? Ero passato la lungara per vedere le prigioni. Anche là, quell'odore che cuoceva nel sole. Cercai Giulianella in trattoria, ma non c'era. Dove abitasse non sapevo e nemmeno volevo saperlo. Trovai Fabrizio, che mi disse che era meglio aspettare. Giulianella andava alle prigioni a portar roba e la seguivano, di certo. Era meglio non farsi vedere. Tutto questo toglieva voglia di ridere. Non restava più nessuno se non Gina e la Marina. Smisi di uscire in bicicletta e mi fermavo al negozio. Tutto sommato la vecchia Marina non seccava. Lei accudiva le due figlie di Dorina con la nonna. Anche Gina l'aveva capita che ero fatto a mio modo e lasciava che andassi e venissi e pensava lei al negozio. Non cambiò nulla nei miei conti a percentuale. S'era provata il giorno dopo. Mi voleva mantenere, ma lo fece con tanta soggezione che risi una volta. «Cara donna», le dissi, «vuoi che mettiamo il letto in negozio? Sono Pablo e lavoro a giornata. Che storie!» Me ne andavo là in faccia a mangiare i finocchi. Poi davo mano alla chitarra e mi sedevo su una cassa. Il lavoro in negozio spingeva. Qualche volta veniva una moto e potevo toccare un motore. Se avessi avuto un capitale, era il momento di ingrandirci. Gina capiva queste cose e mi seguiva. Stava sveglia di notte a pensarci. Io parlavo con questo e quello e facevo i miei conti, ma che proprio credessi all'indomani, non so. Dalla mattina di Luciano qualcosa era successo. Lo sentivo nell'aria che c'era qualcosa. Non poteva durare, ma speravo ancora che fosse un'idea. Certe volte anche a me prendeva l'affanno. Neanche con Gina mi calmavo. Lei faceva di tutto perché fossi contento, perché restassi su quel letto a darle ascolto una mezz'ora. Mi parlava di quando era ancora ragazza, del negozio che avevano di là da quei monti, dove suo padre aveva fatto il carradore e il maniscalco, e ci veniva un suonatore di chitarra, come me. Volle lavarmi lei la roba e ricucirmela. Mi faceva insalate col pepe e la carne. Una sera mi disse, tra brusca e piangente, che non poteva avere figli perché l'avevano operata. Disse, non devi aver paura, e mi tirava addosso a sé. Le risposi che non si sa mai. Era giugno e pensavo di andare sul Tevere, ma non ero tranquillo. Avrei voluto stare in casa tutto il tempo per sentir subito le nuove se arrivavano. E Dorina un bel giorno doveva tornare. E Fabrizio mi aveva promesso di dirmi qualcosa. Certe volte pensavo che forse era meglio così. Non avrei visto più nessuno, non avrei più pensato male. Avrei passato quell'estate a lavorare nel negozio. Uno a Torino e un altro a Roma, borbottavo. Resta con me, diceva Gina quelle sere. Meno male, mi dissi, che ero sempre sull'ala. Un giorno misi le mani su quel pacco di libri. Non li avevo buttati nel Tevere. Erano vecchi e bisunti. Me li guardai per passatempo e dissi a Gina, se qualcuno ti chiede, questa è roba del biondo. Ce n'era di scritti in francese e altre lingue. Li feci fuori l'indomani giù dal ponte, ma quelli scritti in italiano me li tenni. Raccontavano com'era andata la guerra del 15 e la storia del fascio e la marcia su Roma. C'erano dentro i socialisti e tutti quanti, contadini, operai, metallurgici, squadre d'azione. I fascisti li avevano carcerati e picchiati, ammazzato i più in gamba e incendiate le case del popolo. Guarda, guarda, dicevo, leggi il giornale e non si parla che del popolo italiano. Chi pagava i fascisti erano sempre i signori e gli squadristi i loro figli. Faceva rabbia, Ledger, come tanta gente che lavora, sarà fatta fregare da quattro padroni. E Carletto, che vuole ancora fidarsene, dicevo. E Luciano, che è dentro per loro. Tutte le sere ne leggevo un altro pezzo, col batticuore, quando un passo si fermava sulla porta, e capivo che un libro così non potevo buttarlo via. Ma li ha letti, Carletto, pensavo. Possibile. Ce n'era un altro intitolato Roma o Mosca. E mi lessi anche questo, perché a Roma ci stavo. Questo era un libro che nessuno mi poteva mettere dentro, non parlava di Roma. Raccontava che in Russia la gente moriva in prigione, che vivevano in 10 in un locale solo, che le donne battevano la strada e abortivano. Qui, che a Roma hanno fatto la marcia, succede lo stesso, dissi a Gina. Lei mi covava con quegli occhi tutto il tempo e sapeva il pericolo e aspettava che andassi a baciarla.